Ecco, prima di concludere questo incontro, io vorrei chiedervi di sedervi ancora un attimo e vorrei leggere alcuni versi della chiamata di Gesù di alcuni discepoli. E quindi vorrei leggere quello che c'è scritto in Matteo 4. C'è scritto che mentre camminava lungo il mare di Galilea, mentre Gesù camminava, una giornata qualsiasi, una giornata qualunque, una quotidianità molto normale, lui cammina lungo il mare e vede due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, una giornata normale, una giornata di routine, una giornata anche ripetitiva per questi fratelli che stavano semplicemente svolgendo il lavoro loro era pescatori, quindi loro pescavano ed erano lì che gettavano le reti in mare perché erano pescatori appunto, e Gesù disse loro: venite dietro a me, venite dietro a me. Immaginate la scena, Gesù che cammina, vede questi pescatori, loro che sono nella loro quotidianità, una giornata comune, una giornata come ogni altra, e quest'uomo gli dice: venite dietro a me. Non dice solo però venite dietro a me, dà loro una promessa, ed è questa promessa che deve aver fatto breccia nei cuori di questi pescatori, perché Gesù aggiunge, dice: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Vi do un proposito di vita straordinario. Io vi permetterò di catturare il cuore di uomini, di strappare quella che è la loro quotidianità, la loro normalità, la loro vita spenta, morta, per portarla in un'altra condizione, in una condizione di vita piena, di luce. E leggiamo che Gesù va avanti ed essi subito lasciate le reti, lo seguirono. E passato oltre, vide altri due fratelli. Gesù non si ferma a questi primi due fratelli, ne vede altri. Dice, non vale solo per loro, vale anche per voi. Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, resettavano le reti. Anche loro stavano svolgendo un'attività molto comune, molto quotidiana, molto ripetitiva, anche forse noiosa. Resettare le reti non credo che sia la parte più entusiasmante dell'essere pescatori. E mentre loro resettavano le reti, Gesù li chiamò, essi, e io immagino che Gesù li ha chiamati con le stesse parole, con una stessa prospettiva che forse nel Vangelo è sintetizzata, forse Gesù ha aggiunto altre parole, ha fatto comprendere che cosa significava per loro diventare pescatori di uomini, e vediamo la stessa reazione in loro. Essi subito, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Questi discepoli hanno lasciato la loro quotidianità perché hanno visto in quest'uomo, in questo Gesù che passeggiava, uno scopo superiore di vita, una ragione più alta per la quale vivere. E il Signore questa sera sta passeggiando. Il Signore sta passeggiando in mezzo a noi e ci sta ricordando, anche attraverso la storia di Jason, attraverso le parole che abbiamo sentito di Marta, attraverso la storia che leggeremo di Donato. Il Signore passeggia e dice: c'è una storia più alta, c'è un proposito di vita che io per voi, che è più alto, va oltre la quotidianità. La quotidianità è noia, la quotidianità è concentrarsi su cose materiali, terrene, che non hanno una ripercussione eterna, che non soddisfano appieno. Tu puoi avere la migliore delle pesche, puoi avere l'abbondanza di ricchezza maggiore, puoi avere beni, eppure la vita vera, non si può ridurre a quanto ricchi siamo, a quello che abbiamo, a quanto elevato è il nostro lavoro, ma a quanto la nostra vita è a servizio di uno scopo che ha ripercussioni eterne. La tua vita, finora, tutto quello che tu hai vissuto, tutto ciò che vale realmente, della tua educazione dei tuoi figli, del tuo lavoro, delle tue relazioni, tutto ciò che vale veramente è ciò che supererà la prova e il test dell'eternità, ciò che tu ti porterai per l'eternità. E sapete chi si portavano per l'eternità i discepoli? Quegli uomini a cui Gesù li ha chiamati ad essere, per i quali essere pescatori. Gesù chiama pescatori di uomini. La cosa più grande, più elevata che noi possiamo fare come chiesa e come individui è strappare anime da un'eternità nell'inferno, da un'eternità nella sofferenza eterna, eternamente separati da Dio del tutto, nel buio più totale, nella separazione più totale da ogni bene, da ogni bellezza, da ogni benedizione. Beh, lo scopo più alto di vita è strappare quelle anime per portarle ad ereditare la vita eterna, la vita nella luce, la vita nel paradiso, e tutto ciò che abbiamo su questa terra è solo un mezzo che ci viene dato per fare breccia nei cuori e per essere pescatori di uomini. Questa sera io credo che il Signore ci ha riuniti per ricordarci che come Chiesa noi siamo un popolo chiamato ad amarlo, chiamato a vivere adorazione, chiamato ad amare il prossimo e manifestare questo amore vivendo la chiamata più alta, fare suoi discepoli in ogni parte del mondo. Siamo qui perché Dio vuole, almeno una volta alla settimana, attraverso l'incontro domenicale, farci sentire una storia diversa, una narrazione diversa della nostra vita, farci vedere qualcosa di diverso rispetto a ciò che ci viene bombardato nella nostra quotidianità. Nella tua e nella mia quotidianità c'è un nemico che ci sta bombardando contro, delle bugie e delle paure e delle invidie. Non so se voi, sfogliando i social, vi siete resi conto quanto quei social e quelle persone, personaggi famosi, quegli influencer, cercano di dirti una bugia che neanche loro credono fino in fondo, perché se poi vai a leggere la loro vita è miserabile molto spesso, ma loro cercano di darti una narrazione della vita e di dirti: sarai veramente felice quando avrai soldi, sarai veramente felice quando avrai averi, beni terreni, beni materiali, sarai veramente felice quando su questa terra potrai dire di aver avuto la giusta casa, la giusta macchina, il buon posto di lavoro, le amicizie che ti stimano perché sei ricco o perché hai degli averi. Durante la settimana il nemico ci ricorda che viviamo in una società che è in una crisi economica, che ci sono problemi e questi problemi influenzano te e non ti permettono di vivere una vita vera. Ma noi siamo qui perché noi crediamo che c'è una verità superiore, anzi la verità che schiaccia ognuna di queste bugie, e in questa verità noi vogliamo vivere. Questa settimana che ci sta davanti è una settimana nella quale Dio ci chiama non a resettare le reti, non a vivere la quotidianità normale nelle nostre attività, ma a elevarci a quella piena chiamata che Dio ha per ciascuno di noi. C'è un elevato numero, un sempre maggiore elevato numero di suicidi. E sapete perché le persone si tolgono, arrivano a fare questo gesto estremo? Perché perdono lo scopo della vita. Perché hanno incentrato la loro vita completamente in una storia d'amore che magari è fallita, in una prospettiva economica e in un posto di lavoro e magari è venuto meno, in qualcosa che il nemico gli ha fatto credere che sarebbe stata la vera ragione di vita e non l'hanno potuta afferrare, quindi disperati, vuoti, senza un proposito, dicono: non vale la pena vivere. E Gesù cammina. E cammina in mezzo alla sua chiesa e vuole attraverso di noi camminare in mezzo alla società e guardare la quotidianità delle persone e dire: c'è un proposito più grande, c'è una ragione più grande, uno scopo più grande per cui vivere. Dio ti ama e ha un proposito di vita. Se tu respiri e sei vivo su questa terra è perché Dio ti ha voluto e Lui ha voluto darti uno scopo, una ragione, e non hai da disperare, perché qualsiasi cosa il nemico ti può buttare addosso non può sabotare il proposito di vita che Dio ha per te. Ma questa sera dobbiamo afferrarlo. come Jason ha fatto coraggiosamente, come Marta ha fatto coraggiosamente e come devono rifare, perché è un'attitudine che dobbiamo alimentare. Io credo che come Chiesa dobbiamo rialimentare quell'attitudine a dire: noi siamo qui per uno scopo, noi siamo qui non per piangere, lamentarci con la società, ma per essere una risposta per questa società. Noi siamo qui per uno scopo perché il mondo è buio, il mondo è morto, sì è vero, le persone sono smarrite, ma noi abbiamo la risposta. È la ragione per la quale vivere e morire anche. E quando tu muori per uno scopo elevato, quella morte è straordinaria perché profuma di una vita sacrificata per uno scopo maggiore. Ti ricordi quando il Signore ti ha chiamato? Ti ricordi le visioni che Lui ti ha dato? Ti ricordi le parole profetiche che ti sono state rivolte? Ti ricordi quella conferenza o quell'incontro, no, come veniva nominato, nel quale hai sentito che il Signore si stava proprio rivolgendo a te intimamente, personalmente? In quel momento Gesù stava passando, stava passeggiando e stava toccando la tua quotidianità per darti uno scopo maggiore. Io stasera te lo voglio ricordare. Io stasera voglio ricordarmelo. Vivo per uno scopo, vivo per una ragione ed è meravigliosa, vivo per essere un pescatore di uomini, vivo per avere frutti che hanno un peso, una ripercussione eterna. Il mio servizio è per questo, il mio servire in chiesa è per questo, il mio attivarmi è per questo, perché io voglio che sia realizzato il proposito di Dio nella mia vita. Lo vuoi con me? Allora, chiunque lo vuole con me, ti chiedo di alzarti in piedi ora. E vogliamo pregare, vogliamo di nuovo alimentare la passione per il mandato, per il proposito che Dio ha per le nostre vite. Alza le tue mani. Siamo qui, Signore Gesù, in segno di arresa, con le mani alzate per dirti: sia fatta la tua volontà. E basta, basta queste voci, basta le bugie, basta alla lamentela, basta al buttarci giù e al conformarci con questo mondo. Tu hai uno scopo nella nostra vita, tu ci hai chiamati. Tu non hai chiamato solo Jason, tu non hai chiamato solo Marta, tu non hai chiamato solo l'apostolo Paolo, tu non hai chiamato solo Pietro e Andrea. Hai chiamato anche Giacomo e Giovanni e chiami ancora oggi. E io prego in questo momento, Padre, chiunque ha avuto una parola profetica, che ha ricordato in questo momento, che possa accompagnarlo in questa settimana e che possiamo riafferrare lo scopo della nostra vita, che è vivere per cose che hanno un valore eterno. Non viviamo come gli altri vivono, non viviamo per quello che gli altri vivono, noi viviamo per te, Signore Gesù, per dare gloria al tuo nome. Io prego per tutta la nostra Chiesa che possiamo vivere una stagione nella quale la visione che tu ci hai affidato tanti anni fa possa essere qualcosa che ci muove, e che ogni cosa che viene dal nemico per impedire, per dividere, per abbattere, possa essere rotta, possa essere slegata dalle nostre menti e dalla nostra azione come corpo che conquista, che si muove, che agisce, che evangelizza, che porta luce. Nel nome di Cristo Gesù noi ci affidiamo a te, Padre, e affidiamo le nostre vite. Fin quando respireremo, noi vogliamo vivere per dare gloria a te e portare frutti eterni. Se sei d'accordo con me, grida un amen. Amen, amen. Manteniamo i nostri occhi chiusi. Se questa sera sei qui e dici: io non so ancora qual è lo scopo di vita che Gesù ha per me, però io percepisco questa passione, vedo gli occhi, ho visto gli occhi di Jason, di Marta, brillare per quello che è il proposito che Dio ha per le loro vite, e io voglio afferrare lo scopo che Dio ha per la mia vita. Se ancora mai hai ricevuto una parola diretta, specifica, beh, il Signore è qui per dirti che ti ama e che ha un proposito per la tua vita. E io voglio pregare per tutti coloro che vogliono vivere in una dimensione nuova e vivere quel proposito, quello scopo di vita superiore. Se vuoi arrendere la tua vita a Gesù, Allora ti chiedo di alzare la tua mano. Dove ti trovi? Voglio pregare per te. C'è qualcuno che dice: io voglio trovare lo scopo di Gesù, lo scopo di Gesù, del Maestro, nella mia vita. Alleluia. Grazie Gesù. Chiesa, vogliamo pregare insieme, vogliamo alzare coralmente una preghiera di intercessione, che il Signore possa parlare, che il Signore possa rivelare la sua volontà ai suoi figli. Forza, dalla prima all'ultima fila, poi prego io a nome di tutti noi, ma alziamo la nostra voce in preghiera, intercediamo per lo Spirito di Dio che tocca i cuori, che convince del suo scopo eterno per ognuna di queste vite. Alleluia. Alleluia, pare la tua volontà è la cosa più preziosa. La tua volontà per le nostre vite è la cosa per la quale vale la pena vivere e morire. La tua volontà sia rivelata ai tuoi figli. Grazie per la resa che c'è stata questa sera anche da parte di coloro che per la prima volta vogliono rivelazione del tuo piano per loro. Magari tu stai chiamando questa sera nuovi operai a lasciare l'Italia per andare in altre nazioni. Vuoi tu rivelare la tua volontà? O forse a intraprendere un diverso percorso lavorativo, un diverso percorso di studio. Padre, vuoi tu rivelare la tua volontà? Padre, vuoi tu mostrare a cosa devono morire, cosa devono lasciare e cosa devono afferrare? Mostra la tua buona, perfetta, accettevole volontà ai tuoi figli, a tutta la nostra Chiesa. Lo preghiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Vogliamo adorare il Signore, vogliamo stare ancora alla sua presenza. Continua a intercedere, continua a cercarlo, continua a cercare la sua presenza. Sì.